Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Per la prima volta il mondo dei circuiti elettronici e le cellule del sistema nervoso parlano la stessa lingua. Possiamo forse sintetizzare così la realizzazione del primo modello di sinapsi artificiale da parte dell'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia, della Stanford University e della Eindhoven University of Technology. Le sinapsi, vale la pena di ricordare, sono, diciamo, i punti in cui le cellule del sistema nervoso si connettono alle cellule vicine, sfiorandosi allo scopo di trasmettere loro dei segnali, e si trovano al termine di lunghi filamenti chiamati dendriti che partono dal corpo cellulare e si allungano per centimetri, decimetri, a volte anche più di un metro. Queste, diciamo, autostrade lungo cui corrono i segnali elettrici nervosi terminano con delle piccole giunzioni, appunto le sinapsi, all'interno delle quali lo scambio di particolari molecole, i cosiddetti neurotrasmettitori, permettono il passaggio del segnale elettrico da una cellula all'altra. Ma non solo, le sinapsi mutano nel tempo, e cioè alla base della capacità del cervello e più in generale del sistema nervoso di apprendere. Ebbene, da molti anni la ricerca tenta di costruire delle sinapsi artificiali al fine di permettere al sistema nervoso e a dei dispositivi elettronici di interfacciarsi. E quello descritto dai ricercatori protagonisti di questo lavoro su Nature Materials è decisamente un passo avanti verso questo obiettivo. Ne parliamo con Francesca Santoro, che è coordinatrice della linea di ricerca Tissue Electronics dell'IIT di Napoli. Buonasera Santoro, benvenuta. Buonasera. Allora, intanto le chiedo un po' come funziona questo sistema, che poi è anche un oggetto fisico, mi pare di aver capito. Esatto, diciamo la sinapsi bioibrida che siamo riusciti ad assemblare ha una parte che è biologica e una parte che è costituita da un microchip che funge da neurone artificiale. C'è un contatto fisico tra le due parti, e infatti il neurone artificiale riesce ad essere modulato, in qualche modo acceso, dal rilascio di uno specifico neurotrasmettitore, la dopamina, che avviene invece dal lato biologico. La parte biologica, le cellule che noi abbiamo utilizzato sono appunto delle cellule neuronali, certo. Rilasciano queste molecole impattano fisicamente sul microchip e riescono proprio a cambiarne lo stato elettronico, comportandosi esattamente come un neurone nel nostro cervello. Quindi è una trasmissione monodirezionale, diciamo, dal sistema biologico verso quello elettronico. Esattamente, l'inverso è già possibile con dei sistemi, appunto con degli elettrodi che mandano impulsi elettrici ai neuroni e possono modularne quindi l'attività, quindi, o ripristinarne era l'attività. La parte facile, quella già fatta, voi avete fatto quella difficile. Diciamo di sì. Ecco. Mentre invece nel nostro caso abbiamo fatto il contrario, cioè il neurotrasmettitore che parte dal neurone biologico riesce invece a modulare l'attività del neurone artificiale. Ecco, ed è una prima volta per questa ragione, ma anche per altre ragioni. Sì, è diciamo la prima volta che un sistema biologico neuronale entra in diretto contatto fisico con un microchip che appunto si comporta come neurone artificiale. Il secondo aspetto importante è che il microchip tiene memoria di quello che ha visto, cioè di come ha comunicato con il neurone biologico nel tempo. Terzo aspetto importante. E questo è importante perché è la base dell'apprendimento, no? Dei sistemi. Esatto. Il nostro processo di apprendimento è un processo che è proprio caratterizzato da una plasticità, si chiama, nel tempo, cioè non riparte sempre da zero, ma si ricorda nel tempo quello che ha visto in precedenza. In questo caso legato proprio a quanta dopamina viene rilasciata dal neurone biologico. Mentre l'ultimo aspetto importante, soprattutto dal punto di vista del microchip, del neurone artificiale, è che non è fatto di materiali conduttivi tradizionali, come per esempio i metalli o supporti di silicio, ma è fatto di una plastica intelligente, una plastica che è modificata in maniera tale da poter condurre elettricità. Questo ci permette in un futuro di poter avere un microchip flessibile, non solo biocompatibile, quindi non è tossico per il cervello, certo. E quindi teoricamente può essere impiantato all'interno proprio dell'organo. E qui veniamo anche alle applicazioni di conseguenza. Esatto, ovviamente noi abbiamo testato una singola sinapsi, sappiamo che ci sono molte più sinapsi nel cervello, ce ne sono addirittura miliardi. Questo però ci permette di avere il primo, diciamo, primo mattoncino verso dei dispositivi impiantabili che possono essere d'aiuto per le patologie, per esempio neurodegenerative, dove alcune proprio di queste connessioni vengono perse o non sono funzionali come dovrebbero. È come se riuscissimo a impiantare una piccola rete di neuroni artificiale che però riesce a comportarsi e capire che cosa succede invece lì dove viene impiantato, nella parte biologica. E poi naturalmente protesi o cose di questo genere, no? Questo sogno di restituire braccia, gambe, di rimettere insieme parti del sistema nervoso lesionate. Esattamente. Quali sono invece i limiti? Cioè, ancora questo scenario non è proprio dietro l'angolo, no? Esatto, come dicevo prima, noi siamo riusciti a capire come creare un collegamento singolo e dicevamo che invece i collegamenti sono miliardi, certo. Quindi sicuramente la nostra sfida è quella di ricreare su un singolo chip, quindi qualcosa abbastanza piccolo, poter ricreare decine, centinaia di connessioni. Sicuramente però la nostra idea non è quella di mirare a ripristinare migliaia di connessioni, ma piuttosto provare a capire se ci sono, e ci sono in effetti nel nostro cervello, delle connessioni chiave in maniera tale da poter indurre per esempio una risposta a un effetto a cascata, quindi riuscire a stimolare una piccola porzione o sostituire una piccola porzione della rete che poi possa influenzare il resto proprio del cervello. Va bene, grazie Francesca Santoro. Grazie, buonasera. E allora, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani.